piaci tutti e sembra che alla fine poi non ci guardi mai. E lo dirà perfino il gatto nero che dorme sopra un frigo nel campo dei rifiuti tra i fiori calpestati. Onda, onda, perché riporti tutto e con un colpo solo tutto riprenderà. Che cerca il suo tragitto sotto un lampione rotto con curve che non sai. Buio, buio, perché mi hai quasi preso, ma appena io mi arrendo tu dopo te ne vai. Ricorderai gomitoli di nubi e fili di una pioggia caduta qui per sbaglio sopra il vecchio cancello. Vento, vento, ti attacchi a questi rami, ti mescoli ai sospiri e poi li ruberai.